questo momento i binari della polizia stanno caricando, lanciando lacrimogeni e sparando con l'idrante sui manifestanti. Ci sta un gruppo di gente che sta resistendo in vario modo, cioè c'era un po' complicata, nulla di, non è molto tesa come può sembrare, ma comunque si sta cercando di resistere e di tenere la piazza. Ma in questo momento quindi non c'è una testa di un corteo, non c'è più una piazza? No, allora c'è un grosso del corteo che sta ancora a via Merulana e sta ancora su Viola di Canna al Colosseo, quindi ancora gran parte della gente sta in manifestazione, la gente è già arrivata a Piazza San Giovanni, per questo sta riprendendosi la piazza con un faccio che sta camminando tutti per avanti, quindi si sta cercando sulla situazione un po' tesa, per cui è difficile un po' descriverla. Va bene, grazie mille. L'acqua da Grimoggi è fittissima, stava sparando con l'idrante. Mamma mia. Va bene, allora facci sapere tu appena hai altre informazioni. D'accordo, grazie mille.